Benvenuti a Dedicato. Bene. Oggi abbiamo un ospite che, oltre a essere un amico di una vita, è un ragazzo, diciamoci ancora ragazzi, no? Sì, ce la vendiamo così. Che insieme ovviamente a diverse realtà ha creato un luogo di cultura in pieno centro a Bologna, cosa molto particolare perché di solito insomma decentrano questi luoghi di cultura, diciamo, no? E vanno a finire sempre in quartieri o in posti un po' più lontani dal pieno centro storico. Invece qui siamo proprio in una stradina fantastica di Bologna, dietro al Dams, oltretutto, quindi insomma centralissima. E il posto di cui parlo è Nassau. Nassau è un luogo culturale. Adesso con Stefano ne parliamo un attimo. Io volevo chiederti intanto come nasce l'idea di Nassau e poi le realtà che lo vivono, che lo fanno vivere, e che cosa succede qua dentro quotidianamente, insomma, perché al di là del fatto che è un locale molto carino e molto simpatico, è comunque un posto storico della città e ha dei percorsi molto interessanti, quindi ce li racconti un attimo? Prima di tutto, ciao a tutte e ciao a tutti, molto molto volentieri. Il progetto nasce dalla volontà, come sta dicendo Erika, di portare in centro a Bologna una risposta rispetto a una certa decentrificazione della cosiddetta cultura, controcultura, che sono luoghi dove tutte le persone che circolano all'interno di Nassau provengono, di riconquistare in senso metaforico dei luoghi di appartenenza millenaria di questa città, anche delle storie passate, cosa è successo in questi luoghi in passato per ricordarci bene cosa rischiamo di perdere oggi. Il progetto nasce più o meno un anno fa dalla comunione di accordi tra vari gruppi di persone già esistenti e già attive che decidono di dare questa risposta a un meccanismo in atto davanti allo sguardo di tutti. Nasce con la metafora di Nassau, della Libera Repubblica di Nassau, facendo coincidere quel gruppo di donne e di uomini che nel 1706 si dichiararono liberi, abolirono il concetto di schiavitù e soprattutto di differenza tra uomo e donna, maschio e femmina, creando la Libera Repubblica di Nassau. Poi nelle narrazioni sono i cosiddetti pirati, ma lo fecero proprio sotto il naso dei cosiddetti potenti usurpatori, la corona inglese, la Compagnia delle Indie e la corona spagnola, e riuscirono a difendere questo territorio in nome della libertà, ben quasi 100 anni prima dei concetti della Rivoluzione Francese. Senza voler essere così presuntuosi, ci siamo ritrovati a identificarci con questa narrazione, che poi è una delle prerogative di questo luogo: andare per narrazioni che nascono però da delle realtà concrete che sono in questo momento nell'aria. Oltretutto, trovando un posto dal punto di vista di portato molto ma molto interessante in questo luogo dove ci troviamo, Nassau, tra queste mura. Nel 76 c'era il circolo anarchico la Talpa, che subito dopo è diventato il Pancreas, luogo dove i Raff Punk, i Gas Nevada sono cresciuti musicalmente, hanno compiuto delle operazioni musicali e controculturali molto molto interessanti. Queste mura ci piace pensare che siano narrative e se stesse, e anzi è stato molto molto piacevole anche il venirci a trovare del vecchio gruppo del Pancreas, nella figura poi di Beppe Bottaro e dei suoi amici e delle sue amiche che sono venuti qui. Ci è sembrato, e siamo stati davvero molto molto contenti, un passaggio di testimone che poi sta a noi reggere in piedi, portare avanti con questa, certo, valenza. Sì, è un luogo storico effettivamente, infatti dico a tutti di venirlo a vedere, di passarci del tempo, perché veramente è un po' una coccola stare qua dentro anche, no? Non so come dire. E allora io ti chiedo di raccontarci anche i progetti che fate, perché ovviamente non sei da solo, ovviamente il percorso qui è collettivo e di collettivi non ce n'è uno, ma ce ne sono tanti, e ci sono tante persone che portano avanti anche forme laboratoriali. So che avete una sala prove, un piccolo studio, quindi insomma raccontaci un attimo anche come nasce tutto questo insieme di persone, no? Come vi siete trovati, e poi magari mandiamo un brano e dopo parliamo dei progetti nello specifico. Questo gruppo di persone si sono trovati nel corso del tempo, crescendo poi con un concetto di collettivo, collettività molto molto forte e identificativo, e quindi è stato un processo naturale lavorare assieme in comunione, cosa che per fortuna questa città ha nelle sue corde. Forse in questi ultimi anni si sta cercando di edulcorare il senso di collettivo che si respira in questa città, di fare le cose assieme, la bellezza di fare delle cose assieme, a volte rinunciando alla singola identità, anzi con la gioia di rinunciare alla propria identità. E quindi è stato un naturale processo, semplicemente un gruppo di persone, anzi una sorta di collettivo di collettivi, si è trovato a cercare il luogo giusto per continuare a compiere le proprie operazioni. La Wuming Foundation, Resistenza in Cirenaica, che nasce come collettivo di collettivi, dove all'interno ci sono delle realtà e sono circolate delle realtà da VAG a Compagnia Fantasma a Wuming stesso, fino alla relazione poi con altri collettivi, in nome anche della multigenerazionalità, il collettivo, il giovane collettivo Solipsia, e a delle amicizie storiche con delle realtà come il Binario 69, Laboratorio 41, i ragazzi e le ragazze di Bolognina Collettiva e tutte le loro filiazioni, e anche in nome di un nostro aver agito nei territori narrativi e storici di questa città, laddove il centro di Bologna vuole essere un luogo di partenza, ma dove ci si sposta su navi pirata per arrivare molto molto volentieri in Bolognina, in Cirenaica, dove molti di noi provengono e hanno intenzione di continuare anche con l'identità collettiva Nassau ad operare. Ottimo, bene, quindi siete tantissimi alla fine e i percorsi sono veramente molti. Allora, mandiamo un primo brano e poi ci ritroviamo un attimo a parlare dei progetti. Dopo. Del 28 luglio attraccò davanti al porto la corvetta Persefone, e da una barca a remi giunsero in terraferma il comandante della nave e un ispettore di polizia. Ad accoglierli trovarono il podestà e il segretario del partito, che fosse stato per spinta inerziale, forza dell'abitudine, o perché davvero non avevano capito cos'era successo, si erano presentati in orbace, col fese, i distintivi, e fecero il saluto romano. Rimasero sconvolti quando l'ufficiale li apostrofò così: «Buffoni, vergognatevi a girare conciati in quel modo! Andate a togliervi quei costumi da pagliacci!» Al porto era sceso anche Guida. Accompagnò i due in direzione e si chiusero a discutere. Che stava succedendo? Radio Confino si attivò come non mai. Cos'era venuta a fare quella nave? Molti andarono al porto a vederla, turbati. Il mistero ce lo svelò Guida nel suo ufficio quando la Persefone fu ripartita. Lo fece ridendo e scappò da ridere anche noi. E fu l'unico momento di, chiamiamola così, intesa col personaggio. Radio Confino esplose. Dire che la notizia era ghiotta significa sminuirla. Era l'ironia della storia. Era la giustizia poetica. Pasta e fagioli. Sulla Persefone c'era lui. Cercando un posto dove ficcarlo dopo l'arresto, il ministero aveva pensato alla colonia di Confino par excellence. Pessima idea, aveva spiegato Guida. A Roma dovevano essere parecchio confusi per aver avuto quella pensata. Qui ci stanno centinaia di persone che lo odiano, gli ho detto. Persone che sono qui da anni perché, semplificando, ce li ha mandati lui. C'è addirittura gente che ha tentato di fargli la pelle. Se proprio vi piace l'arcipelago, ho concluso, portate la Ponza, che è più grande e ci sta solo un pugno di internati. E lo stanno portando davvero. Ridemmo, ma con l'amaro in bocca. Anziché far partire noi, avevano cercato di portare lui. Salì a Punta Eolo e guardai la corvetta navigare verso Ponza. Persefone. Persefone, dea dell'oltretomba, figlia di Demetra, moglie di Ade. Quando Ade la rapì, lei non poté tornare dagli inferi perché aveva mangiato un chicco di melagrana e dunque, per l'etichetta dei numi, aveva accettato l'ospitalità del rapitore. Si giunse a un compromesso. Persefone avrebbe trascorso sull'Olimpo i mesi da marzo a ottobre e nell'oltretomba quelli da novembre a febbraio. Da allora la melagrana è il cibo della morte e della rinascita. Penso che noi ex confinati siamo come Persefone. Anche se nelle nostre mense non comparve mai, in qualche modo mangiammo la melagrana. Qualcosa continua a legarci a Ventotene. Io non ci sono ancora tornato, ma certamente lo farò prima di morire. Rientrerò in quel campo di forza. Tornerò al nostro muricciolo. Ascolterò le raffiche fischiare tra le case e penserò: ecco l'eolifono, eccola che gira, la macchina del vento. Abbiamo ascoltato è tratto dalla Macchina del Vento di Wuming 1, suonato dal Butan Clan, gruppo storico bolognese che ormai si è trasferito tra le mura di Nassau, e si intitola Persefone in un'esecuzione dal vivo. La qualità audio non sarà granché, ma è uno dei progetti che poi ha visto la nascita tra queste mura del progetto Radio UFO 78, tratto dall'ultimo libro di Wuming, Collettivo Completo, e con degli incastri di ex Kaizen nella figura di Gia Dell'Andretto e Guglielmo Pispisa. È una specie di reading molto molto particolare che si nasce da una sorta di caverna sonora dell'antimateria per poi manifestarsi in tutte le tematiche di UFO 78, il libro. Beh, è una chicca, no? Che abbiamo presentato, poi uno dei nostri gruppi preferiti, cioè che vogliamo di più, no? Quindi, senti Ste, allora torniamo un attimo dentro le mura di Nassau, raccontaci che cosa fate nella quotidianità, quindi laboratori, serate, percorsi, ci sono un sacco di cose qui, e quindi raccontaceli un attimo, dai. Così come prima, cercando di esplicare la rete di realtà che è venuta a abitare queste mura, questi luoghi, così anche la produzione all'interno di Nassau si identifica con una forte relazione tra le forme ed i linguaggi, quindi chi più ne ha più ne metta, come si suol dire. Varie realtà che abitano questo luogo si occupano da laboratori, cioè ne abbiamo diversi tipi, quindi l'attività laboratoriale e anche di ricerca pura, a organizzazione di eventi che sono di natura teatrale, musicale, presentazioni di libri che spesso circolano all'interno di un bellissimo gruppo di lettura comune che, come ci diceva in collegamento la settimana scorsa Alberto Prunetti, lo scrittore di Amianto, libro importantissimo per quanto mi riguarda, è sempre un miracolo quando un gruppo di persone si ritrova a leggere insieme una storia, un libro, e ogni volta che nasce una nuova libreria indipendente cioè da stappare bottiglie, anche perché non è più così ordinario oggi, no? No, esatto. Leggere insieme, quindi grande cosa, bellissimo. Anche lì, tra le varie realtà teatrali, musicali che si occupino di lettura di libri, cerchiamo sempre di creare degli incastri, delle relazioni per scambiarsi suggestioni e creare qualcosa anche assieme, sia a livello performativo sia a livello di percorsi di gruppo. Questa più o meno è la nostra intenzione, far entrare in relazione, ma a volte anche, perché no, in cortocircuito, linguaggi diversi, realtà diverse, perché succedono sempre cose interessanti. Certo, vogliamo dirlo dov'è Nassau? Ah, perché certo. Io ho detto andate a vedere, vivetelo questo posto, ma non abbiamo detto né come trovarvi eventualmente sul web, né dove trovarvi fisicamente, quindi vai. Partiamo dal luogo fisico, perché chiaramente ci interessa sempre maggiormente la relazione di persona. Certo. Una cosa che si sta estinguendo e che noi tentiamo, perseveriamo, sì, di portare avanti fortemente. Siamo in via dei Griffoni 5/2A, è in pieno centro, nel senso da di fronte al Dams c'è una viuzza che si chiama Vicolo Gangaiolo, basta prendere quella viuzza e girare a sinistra e ci si trova magicamente in via dei Griffoni, e precisamente alla prima curva c'è cioè l'ingresso di Nassau, condiviso felicemente con l'osteria dei Griffoni di Lorenzo, un oste d'altri tempi che per noi è diventato uno zio, un amico, una persona davvero cara. Quindi un altro pezzo di Bologna, insomma, dai. Esatto. Un altro pezzo storico. E ci piace essere al suo fianco e stare uno a fianco dell'altro come luoghi. In rete ci potete trovare molto molto facilmente sui social, basta cercare Nassau Bologna, per non confondersi con la capitale delle Bahamas. Abbiamo inaugurato un sito che è una piattaforma anche di diffusione dei laboratori, degli eventi che avvengono qui, per noi molto importante, che è nassaubologna.com. Perfetto, dai, mandiamo un altro brano e ci ritroviamo fra poco. E che brano? Metti un periodo buio lì senza amore, in cerca di una notte fatta per bere, e fai di tutta la tua vita un bicchiere, e aspetti un'alba che ti porti a dormire, ed è malinconia segue per la via, ti lascia dopo un'ora, ma tu sai che torna ancora. Metti un amico che ora deve partire, probabilmente non si fa più sentire, non sai se piangere o provare a scherzare, non dici niente e mille cose da dire. Ed è malinconia, a guardi, compagnia, ti dà sempre ragione, ma in cambio a voi, chissà che vuole. Da solo in fondo ad un locale. Metti che un giorno all'improvviso per strada ti chiedi se è soltanto questa la vita, parli una lingua che per gli altri è sbagliata, anche restando a 100 metri da casa. Malinconia! O no, che sia, è quello che ti resta quando il mondo non ti basta, ed è malinconia, ed è periferia, è l'unica che sente se sto in pane. Veramente! Metti che adesso, dopo tante parole, dietro la porta ti aspetta l'orrore! Cosa puoi fare? Era già tutto previsto! In fondo è chiaro, noi viviamo per questo! Metti che il mondo, per un mese o un istante, di te si scordi quasi completamente! Sei che a casa solo da cane mangi qualcosa tanto per non morire. Ere malinconia di tutti, un po' anche mia, è l'unica che aspetta quando il tempo va di fretta. Bentornate e bentornati, abbiamo ascoltato semplicemente quello che è uno tra i nostri gruppi preferiti, misconosciuto ai più, ma perché da andare a ricercare. Da ricercare, è un altro dei nostri gruppi preferiti. Esatto, e sono i Death Tankos con una interpretazione molto particolare di Malinconia di Riccardo Fogli. Fantastici, grandi. Senti Ste, allora ci racconti un po' invece adesso gli eventi di gennaio, che visto che abbiamo detto a tutti di venire a Nassau, diciamogli anche cosa possono venire a fare, cosa c'è in programmazione questo mese, e poi niente, poi ci dobbiamo salutare purtroppo, quindi... È già finito. Vai, è già finita, sì, vai, vai con gli eventi di gennaio. Parto dagli eventi musicali che nascono poi da delle forti relazioni che abbiamo con le etichette indipendenti di Bologna, in particolare Fabbrica Etichetta Indipendente e Vertical Music. Abbiamo Fabrizio Cammarata, che è un interprete e cantautore fantastico per quanto mi riguarda, il 18 di gennaio. Abbiamo Carmelo Pipitone, personaggio storico anche per i pratelliani come me, il 27 di gennaio. Oltre a continuare con il gruppo di lettura comune, la presentazione dei libri, abbiamo in ballo dei libri molto interessanti da presentare solitamente il lunedì, e i laboratori che ripartiranno da febbraio. Presto sul nostro sito appariranno i nuovi laboratori e le nostre ricerche vanno dal lavorare dal documento al testo a un laboratorio di scrittura esperienziale fatto in giro per la città di Bologna, alla ricerca delle tracce storiche di questa città che poi si trasformino come sempre in narrazione, sempre munendoci delle commistioni tra i vari linguaggi e anche tra i vari laboratori che spesso sono in comunicazione tra di loro. Antropologia sensoriale, che è un laboratorio che porta avanti un ragazzo fantastico che si chiama Francesco Casaburi, e molti altri laboratori a cui stiamo lavorando, oltre a tutte le produzioni interne, l'utilizzo della sala prove dello studio di registrazione, delle residenze teatrali. È un progetto fantastico che sta nascendo, di cui probabilmente non posso ancora entrare nello specifico, ma tenevo a dirci che una delle relazioni importanti che stiamo tessendo è con Cantieri Meticci per delle operazioni che sono già in ballo e sono nell'aria e di cui presto avrete delle novità. Spero di non scordarmi niente, perché sono davvero tante le cose. Sì, veramente, non state mai fermi, Nassau, proprio navighiamo sempre in movimento, in buonaccia in tempesta. Fantastici. Bene, niente Ste, quindi ci riaggiorniamo presto. Ci riaggiorniamo presto, molto molto volentieri, anche perché è sempre un piacere essere ospitati dalla radiofonia. È un linguaggio a me caro, diciamo così. Bene, ascolta, niente, salutiamo tutti, ci risentiamo la settimana prossima, sempre mercoledì, sempre alle 13 su Radio Città Fujiko. Grazie Stefano di essere stato con noi e grazie di averci raccontato Nassau, che è veramente un luogo fantastico e da vivere. Ciao. Ciao.